Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia, l'ultima della settimana. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook di Radio 24 e quella di Focus Economia, dalle quali andiamo anche in diretta video e se volete potete commentare anche là, vi leggiamo. Dall'altra parte del vetro Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Possiamo dunque iniziare non prima di una premessa. Ora, io so di darvi un dolore, ma oggi la classifica non c'è. Prerogativa che lasciamo al nostro Sebastiano Barisoni, che torna la settimana prossima. Lunedì ci sarò anch'io, poi per tutta la settimana tornerà Sebastiano Barisoni, il titolare della trasmissione, monarca della trasmissione. A lui lasciamo la classifica del venerdì. Tra l'altro si arrabbia più di me, quindi va bene così. Invece di che cosa parleremo oggi? Parleremo soprattutto di lavoro e ne parleremo nella prima parte della trasmissione ampiamente, perché oggi, come sapete e come anche GR24 vi ha raccontato, c'è stato lo sciopero dei lavoratori di Amazon nel centro vicino a Piacenza, nel centro di smistamento vicino a Piacenza, uno sciopero sul quale si dibatte come sempre a proposito delle cifre, perché i sindacati dicono che l'adesione è stata intorno al 50%, se non superiore, l'azienda sostiene un'adesione del 10%, i sindacati controreplicano e dicono no, guardate, dicono 10%, perché? Perché loro in questo conteggio tengono dentro anche i lavoratori, per così dire, a chiamata, quelli che utilizzano in emergenza, mentre invece noi stiamo parlando dello sciopero dei lavoratori a tempo indeterminato. Cosa chiedono i lavoratori di Amazon? È una vertenza classica, chiedono più soldi e condizioni di lavoro migliori, perché a quanto pare la situazione all'interno di questo centro di smistamento è piuttosto stressante in quanto a ritmi. Questo ci dà l'occasione per parlare tanto di Amazon, perché più che di Amazon in generale, insomma, della situazione di questi lavoratori. Ritmi più stressanti perché? Perché siamo cambiati anche noi come consumatori, soprattutto nelle grandi città, ma non solo nelle grandi città, siamo dei consumatori che chiedono sempre di più le cose rapidamente e velocemente, siamo always on, come si dice, sempre accesi, lo siamo come consumatori e come lavoratori, e siamo e abbiamo questa tendenza all'on demand, ossia all'avere a richiesta immediata quello che desideriamo, che ci deriva anche da nuove modalità di consumo, come possono essere i servizi di streaming online come Netflix, come Spotify o Deezer per quanto riguarda la musica, che fanno sì che le nostre richieste siano sempre più impellenti come consumatori, e questo comporta che inevitabilmente le aziende si adeguino, e questo ha evidentemente un impatto sui lavoratori, e questo è un elemento della nuova rivoluzione, della grande rivoluzione digitale che stiamo attraversando. L'altro elemento sono le nuove modalità di lavoro, e Amazon è solamente un'occasione, perché come si diceva questa è una vertenza classica, ma molto si è parlato nei mesi scorsi di tutti quelli che fanno consegne a domicilio tramite le nuove piattaforme, pensiamo a Foodora, Deliveroo e via dicendo, tutte queste aziende che sono fondamentalmente delle piattaforme, così sostengono, dicono siamo delle piattaforme, noi ci limitiamo a mettere in contatto chi vuole consegnare del cibo con chi vuole farlo arrivare a casa dei cittadini, con un terzo elemento che è il consumatore, ovviamente, che effettua la richiesta. Chi invece fa le consegne per queste piattaforme dice no. No, guardate, io sono praticamente un lavoratore dipendente in questo caso, e quindi è in questo modo che dovete regolarmi. Considerate che contro Foodora è partita una causa esattamente un paio di settimane fa, il 18 ottobre scorso, da parte proprio di quelli che un tempo chiamavamo fattorini, come possiamo chiamarli, e che adesso girano con le bici per le nostre città e consegnano il cibo. È un tema largo che comprende tutto un pezzo di questa nuova economia, comprende Uber, tanto per fare un esempio, lo ricorderete che un giudice del lavoro ha deciso a Londra che in merito a questo, in merito soprattutto agli autisti, non tanto quelli che noi chiameremo gli NCC qua in Italia, ossia quelli che hanno una regolare licenza, ma per quello che è vietato nel nostro paese, ossia Uber Pop, la possibilità di ciascuno di dare un passaggio a qualcun altro facendosi pagare. È tutto un mondo che si sta muovendo, qualcuno lo chiama cottimo o neocottimo come una volta, però la sostanza è che le nuove tecnologie che stanno mettendo in connessione sempre più rapida i consumatori con le aziende con i loro fornitori, sta creando tutta una serie di problemi e di cortocircuiti all'interno del mondo del lavoro che in qualche modo andranno, sui quali in qualche modo bisognerà riflettere e sui quali forse a un certo punto bisognerà pensare anche a come regolarli. Parleremo di questo nella prima parte della trasmissione e ovviamente i vostri messaggi, le vostre riflessioni, tanto via SMS quanto via WhatsApp, quanto appunto sulla nostra pagina Facebook, sono benvenute. Parleremo di questo e poi nella seconda parte della trasmissione andremo più specificatamente sull'industria italiana, non per parlare in questo caso di lavoro, o meglio per parlare anche di questo, ma per parlare invece di congiuntura, perché sono arrivati dei segnali particolarmente positivi per quanto riguarda l'export. I numeri sono buoni, ne parla oggi il sole 24 ore, abbiamo un surplus di 4 miliardi e mezzo e ci sono segnali positivi da tutta una serie di paesi come per esempio la Turchia, gli Stati Uniti, un più 17%, un più 15,6% per la Cina, e quindi sono buoni segnali perché si aggrediscono dei mercati che si volevano aggredire, insomma, nei mesi scorsi, negli anni scorsi abbiamo detto molto spesso, quando abbiamo parlato con persone che si occupavano di export ci dicevano: bene, dobbiamo essere più tosti sulla Cina, sulla quale siamo ancora poco presenti, e spingere ancora sugli Stati Uniti, che sono un nostro mercato, che sono un mercato maturo, ma sono un mercato di grande riferimento per noi. Evidentemente i segnali che ci arrivano in queste ore dai dati sull'export ci dicono esattamente questo, e che queste cose stanno funzionando. Infine, ovviamente, la giornata di mercati. Vi dico subito che rispetto a metà della giornata, nella quale gli indici erano ampiamente sopra la parità, per così dire, comunque sotto il punto percentuale, le cose stanno lievemente peggiorando. Il FTSE MIB guadagna lo 0,15%, il FTSE All Share lo 0,14%. Per quanto riguarda le altre borse, Parigi guadagna lo 0,26%, Francoforte mezzo punto percentuale, l'America, dopo la riapertura ieri era il Thanksgiving Day e come vi abbiamo detto erano chiuse le borse, più 0,29% sul Dow Jones, più 0,26% per lo Standard & Poor's 500, con in cima al listino oggi alcuni bancari: BPR Banca più 5,71, BPM più 4,4, Mediaset più 4,23, UBI Banca più 3,03, Unicredit più 1,48, in fondo al listino Saipem meno 2,38, Brembo meno 1,61, Exor meno 1,22, Italgas meno 1,06, Terna meno 0,88%. Le notizie in breve di oggi. Iniziamo come sempre dalle materie prime: oro meno 0,2% a 1.288 dollari l'oncia, il petrolio che guadagna lo 0,1% a 58,6 dollari al barile, sostanzialmente fermo. Incontri interlocutori sulla Brexit, Theresa May oggi incontra, anzi lo sta incontrando proprio in questi minuti, era previsto per le 16.30 il meeting al vertice con Donald Tusk per parlare dei negoziati, dice la May, che la May definisce positivi in corso, guardando la futura partnership approfondita e speciale che voglio con l'Unione Europea. I negoziati continuano, ma ciò su cui sono chiare è che dobbiamo andare avanti assieme. Sta sia alla Gran Bretagna che all'Europa arrivare alla prossima fase. E commenta il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani che si sta prendendo qualche spiraglio positivo per andare avanti. La corsa agli acquisti per il Black Friday, beh, ne abbiamo parlato ampiamente ieri, vi dico solamente che il segnale che arriva dal Regno Unito, spesa stimata 8 miliardi di sterline, solo per oggi si parla di qualcosa, spesa stimata per tutto il fine settimana, solo per oggi si parla di 2,6 miliardi di sterline, l'8% in più rispetto all'anno precedente. Dall'Unione Europea è arrivata una nuova bocciatura, o meglio, è in arrivo una nuova bocciatura per l'addendum della BCE sui non performing loans, ossia sulle sofferenze bancarie. Che cos'è? Un documento con il quale la Banca Centrale Europea, ne abbiamo parlato tantissimo, ma per riassumere, nel quale la Banca Centrale Europea prospetta dei criteri più stringenti per i bilanci delle banche e per i non performing loans, per le sofferenze, prevedendo per esempio che le sofferenze, i crediti, quindi i crediti non più esigibili, per chiarirci, non garantiti, debbano essere totalmente coperti dalle banche entro 2 anni. Per quelli garantiti si parla di 7 anni, e le banche hanno contestato questi criteri, trovando che potessero creare dei problemi molto seri sui bilanci, che poi a cascata ricadono anche sul credito alle imprese, come ovvio che sia. C'è il rapporto sulla stabilità finanziaria della Banca d'Italia che dice che un eventuale aumento dei rendimenti di mercato, ossia dei tassi, un aumento dei tassi, se in linea con il miglioramento della congiuntura, è ampiamente sostenibile dall'economia italiana e che cala la vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese. Scende, dice la Banca d'Italia, anche l'esposizione delle banche ai titoli di Stato a 319 miliardi, un taglio di 33 miliardi nei 12 mesi terminati in settembre. L'intervento pubblico nel capitale di Monte dei Paschi, a proposito di banche di natura temporanea, il Ministero dovrà cedere la partecipazione entro l'arco temporale di riferimento del piano, sia entro 5 anni, nel 2021, lo ha detto il direttore generale del Tesoro Vincenzo Lavia in audizione alla commissione d'inchiesta sulle banche. Ha detto anche che il Tesoro, quando ci fu l'aumento di capitale di MPS nel 2011, avvisò la fondazione Monte dei Paschi dei grossi rischi che stava correndo. Evidentemente il Tesoro fu inascoltato. Ed è arrivato un esposto di Pier Ferdinando Casini, che è il presidente della commissione d'inchiesta sulle banche, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Giuseppe Pignatone. Perché? Perché sono stati pubblicati anche in forma fotografica gli elenchi dei principali debitori insolventi di Veneto Banca. Una lista nella quale figurano imprenditori del lusso, marchi alimentari, sportivi, ex calciatori ed immobiliaristi, una società londinese legata all'avvocato romano Fabio Castaldi, esperto di diritto internazionale, il parlamentare Salvatore Matarrese. Il fronte della manovra, c'è una nuova proroga per un anno, il 2018, al divieto degli incroci proprietari tra TV e giornali, lo prevede uno dei commi dell'emendamento mille proroghe presentato dal governo alla manovra. E per quanto riguarda altri dati che arrivano dall'Italia, c'è quello sul fatturato dell'industria che è in flessione, in calo, meno 1,2% a settembre, un più 1,8% comunque su anno, e per gli ordinativi si registra un calo netto rispetto ad agosto, un meno 3,9%, da segnalare che però il dato annuo è particolarmente positivo, più 4,5%. Infine l'industria metalmeccanica, su questo ascolteremo un'intervista più avanti, è cresciuta del 2,3% nei primi 9 mesi del 2017 rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. E sull'industria metalmeccanica torneremo dopo, perché abbiamo un'intervista realizzata dal nostro Vincenzo Miglietta, spesso lo facciamo quando c'è l'indagine congiunturale di Federmeccanica. Ma iniziamo dal primo tema di questa giornata, che è il lavoro. E lo so che volete Barisoni, lo so, non vi preoccupate, ve l'ho detto, martedì torna, tranquilli, ragazzi. Barisoni libero, scrive qualcuno. Guarda tu se la gente non può farsi una settimana di ferie. Allora, lo sciopero di Amazon nel giorno del Black Friday nello stabilimento di Piacenza, nello stabilimento del Piacentino, dove lavorano 4.000 dipendenti, 1.600 contrattualizzati, 2.000 reclutati per il periodo natalizio, uno stipendio di circa 1.450 lordi al mese. Si gestiscono là le spedizioni di 1.200.000 pacchi al giorno, 1.200.000. Battaglia sui numeri delle adesioni. Andrea Biondi del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a voi. Simone. Che hai passato la giornata davanti a quei cancelli con un discreto freddo, tra l'altro, insomma, più caldo perché sei stato fuori tutto il tempo. Com'è stata la giornata là? Beh, allora, puoi togliere innanzitutto discreto perché è stato freddo. Allora, la giornata tutto sommato era quello che ci si poteva aspettare. No, un centinaio di persone abbondanti fuori dai cancelli. Bisogna però iniziato. Allora, facciamo così, Andrea. Allora, la giornata era quello che ci si poteva aspettare, ma il collegamento telefonico con te non lo è, perché non ti sentiamo, ti sentiamo malissimo. Forse possiamo iniziare a far questo: iniziare a sentire qualche voce. A partire da quella di Fiorenzo Molinari della Philcams CGL, che è una voce che tu hai raccolto, che ha raccolto Andrea Biondi. Ascoltiamolo. Noi siamo molto soddisfatti, abbiamo un'adesione del primo turno attorno al 50%, ho sentito che l'azienda ha detto il 10%, ma certamente perché tiene conto anche dei verdi, cioè quelli somministrati. Noi abbiamo spinto soprattutto a far sciopero alle persone che hanno un contratto a tempo indeterminato, qui sono soprattutto giovani, hanno capito che unirsi insieme probabilmente riesce a portare avanti una serie di diritti che secondo noi sono fondamentali. Altro sindacalista, Pino De Rosa, segretario regionale dell'UGL terziario, sempre al microfono di Andrea Biondi. Noi dobbiamo convincere questa azienda ad accettare di normalizzarsi e di accettare quella che è la cultura e la civiltà del lavoro in Italia. Semplicemente questo. Ha risolto questo problema, tutti gli altri vengono da sé. Il rispetto della vita delle persone in relazione all'organizzazione del lavoro, una retribuzione che sia non solo quella contrattuale, ma che sia proporzionata anche all'impegno e al sacrificio dei lavoratori. E vediamo se siamo riusciti a recuperarlo, eh. Andrea Biondi, ci sei? Eccoci. Eccoci qua. Oh, finalmente il cellulare prende in una maniera decente. Dunque, raccontaci un po' questa giornata e anche questa sorta di battaglia di cifre che c'è stata tra i sindacati e... Guarda, allora, la battaglia di cifre, come in ogni sciopero, non poteva mancare anche in questa occasione. Come dicevo, quello che ho visto era un po' quello che mi aspettavo. C'era un centinaio abbondante di persone fuori dai cancelli con le bandiere delle organizzazioni CGL, CISL, UIL e UGL che hanno proclamato questo sciopero per la giornata di oggi, e già dal mattino, da più o meno a ridosso delle 4 di mattina, i primi rappresentanti dei lavoratori sono arrivati lì e hanno trovato con sorpresa che stavano entrando dei lavoratori per il primo turno, quindi già anticipato rispetto al solito. Secondo alcuni è stata una mossa dell'azienda, secondo altri no. Comunque, alla fine, il primo turno sono entrati i lavoratori e, secondo i sindacati, il 50% dei lavoratori a tempo indeterminato hanno aderito allo sciopero per quanto riguarda il primo turno. È una distinzione importante questa, nel senso che, come spiegavi, il sito di Castel San Giovanni va avanti perché ci sono anche dei lavoratori somministrati, chiamati Green Badge, si riconoscono perché hanno questo badge verde, che vengono arruolati per il periodo natalizio da ottobre in poi. Ed effettivamente questi lavoratori, tramite agenzie interinali, potevano far sciopero, ma sono stati i sindacalisti stessi e i lavoratori fuori, che erano fuori dai cancelli, a spingerli a entrare. Con i nostri occhi ne ho visti due che insomma si sono rifiutati di entrare e in qualche modo hanno parlato davanti ai loro colleghi dicendo che per loro il lavoro è importante, ma le condizioni di vita anche di più, quindi dice magari ci cacceranno fuori dopo questa nostra dichiarazione, però troveremo lavoro altrove. Entrando dentro, quello che si è visto comunque, si è visto che il magazzino era in piena attività. E quindi è andato tutto regolarmente, come del resto la stessa azienda ha detto. Qua qualche ascoltatore inizia già a dire, a polemizzare, dai che i sindacati fanno scappare anche Amazon dall'Italia. Guardate che oggi hanno scioperato anche 6 centri di Amazon in Germania, quindi insomma evidentemente c'è qualche problema, c'è quantomeno, insomma qualcosa su cui riflettere c'è evidentemente. Facciamo così, sentiamo anche la voce dell'azienda. Anna Marino ha sentito Salvatore Iorio di Amazon Italia Logistica, vediamo se Andrea Roccabella ce l'ha sotto mano, possiamo trasmettere, via. Oggi come sempre siamo impegnati in quello che è il nostro obiettivo primario, ovvero sia mantenere la promessa che abbiamo fatto ai nostri clienti, e quindi in questo che ci stiamo impegnando oggi. La maggioranza dei lavoratori è qui e ci sta aiutando per rispettare questo impegno. L'impegno è quello di esaudire gli ordini di un giorno particolare come quello del Black Friday? Oggi come sempre, oggi anche che è Black Friday. Primo sciopero simbolico dell'era 4.0, e così ci sono state delle irregolarità oggi? No, la definizione non la uso io, non la commento. Posso dire che noi siamo una grande azienda, c'è sicuramente il digitale, ma ci sono anche 3 centri di distribuzione come quello di Piacenza, per cui 4.0, se vuole, è una definizione che per alcuni aspetti lascia il tempo che trova. Noi siamo un'azienda anche fisica, impegnata nella lavorazione, nei magazzini, e quindi assumiamo tante persone, con noi lavorano tante persone, non è solo un'impresa di natura digitale, quindi vuota, non è una scatola vuota, ma c'è del lavoro dietro. Oggi comunque sta andando tutto a pieno regime? Oggi ci stiamo impegnando perché ci sia la risposta al cliente, quindi stiamo spingendo perché ci sia una risposta adeguata. Oh, Andrea Biondi, mi sembra che si possa tranquillamente sposare quello che dice Salvatore Iorio, non per così dire, in difesa dell'azienda, ma quanto per il ragionamento che ci sta sotto. L'avvertenza di oggi, lo sciopero di oggi, è uno sciopero molto classico per salario e condizioni di lavoro, non è uno sciopero collegato alle nuove modalità di lavoro che appunto hanno a che fare con il digitale, o lo è solo parzialmente, no? Assolutamente, infatti è uno sciopero molto classico e forse una tipologia di sciopero alla quale in questi ultimi anni ci siamo un po' disabituati. Questa è meramente una battaglia rivendicativa, è una battaglia rivendicativa di migliori condizioni economiche innanzitutto, legate alle condizioni di lavoro. Quello che è accaduto a un certo punto è anche, come dire, qualche lavoratore che stava per entrare si è fermato a parlare con i lavoratori che erano fuori e discutevano di questo fatto, cioè appunto chi voleva entrare diceva sì, ma Amazon ci dà la possibilità di lavorare, mi dà la possibilità di lavorare, io ho dovuto peregrinare tanto per trovare un posto ed Amazon me l'ha dato, e diciamo i lavoratori fuori dicevano ok, ti ha dato questo posto di lavoro, ma a quali condizioni? Vuoi continuare così per essere spolpato fino all'osso, perché questo è quello che ci fanno? Dopodiché altri mettevano in evidenza che non è proprio così, cioè nel senso che è un lavoro di un certo tipo, del magazzino, quindi logistica, altri mettevano in evidenza che comunque è un lavoro di un certo tipo, magazzino, logistica, ma fatto con un grande stress perché sono richiesti degli obiettivi molto sfidanti. Quindi poi alla fine i sindacati che sono entrati non da molto in azienda hanno fatto questo colpo e sicuramente è un salto di qualità nelle relazioni sindacali. Sì, anche per lo spazio che gli stiamo dando noi giornalisti, ma come è giusto che sia, effettivamente. Io ti ringrazio, grazie ad Andrea Biondi per questo racconto e per queste spiegazioni. Questo però ci dà il destro per parlare anche di altro, di cose più che hanno a che fare più strettamente con la tecnologia, più strettamente con le piattaforme che fanno di fatto da intermediatori del lavoro, ma lo facciamo dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. Qualcuno ci chiede via SMS, via WhatsApp al 349-238-6666, ma quanto lavorano e quanto guadagnano queste persone che lavorano per Amazon, che lavorano dentro questo centro di smistamento. Guadagnano intorno ai 1200 al mese, netti ovviamente, sto parlando ai netti, e sono tre turni da 8 ore ciascuno. I ritmi sono molto serrati e questo forse è il tema, o almeno uno dei temi ovviamente. Qualcun altro che forse non ha capito bene la relazione tra due numeri ci dice: stamattina avete detto che ad Amazon arrivano 12 ordini al secondo e ora parlate di 1,2 milioni di pacchi al giorno, mettetevi d'accordo. Ma mi scusi, sono due numeri diversi. Il numero di ordini non corrisponde necessariamente al numero di pacchi inviati. Oltre al fatto che ci sono vari centri di smistamento di Amazon, non è che c'è solamente non c'è solamente quello di Piacenza, non ci sono solamente quelli italiani, tra l'altro. Alberto Magnani del Sole 24 Ore. Ciao Alberto, buonasera, benvenuto nei nostri studi. Buonasera Simone. Per parlare, per estendere il discorso oltre la vicenda di Amazon e arrivare invece a quello che è il grande tema del quale si dibatte ormai da mesi, da quando abbiamo visto quella specie di sciopero, questa sorta di sciopero dei lavoratori di Foodora. Sarebbe improprio chiamarlo sciopero dal punto di vista di Foodora, perché Foodora non li considera lavoratori dipendenti, eppure costoro, una parte di costoro ha fatto causa all'azienda un paio di settimane fa. C'è un grande tema che riguarda i cosiddetti gig workers, no? Questi lavoratori che passano dalle piattaforme, cioè di fatto sono le piattaforme che danno loro lavoro, ma in realtà non sono le piattaforme che danno loro lavoro, perché è il cliente che paga la consegna. È un meccanismo un po' complesso nel quale le piattaforme sono in mezzo, fanno da intermediari e dicono: questi non sono nostri dipendenti, così come i ristoranti non sono nostri fornitori. In sostanza, noi ci rimettiamo con la tecnologia a mettere in contatto domanda e offerta, e però questo crea dei problemi anche in termini economici per queste persone. Ma sì, Foodora, Deliveroo e la stessa Uber hanno avuto il merito, sempre che di merito si possa parlare, di portare le tensioni sindacali all'interno del magico mondo delle startup, perché come dicevi giustamente tu, queste piattaforme sostengono di limitarsi a mediare il rapporto tra clienti e lavoratori, però di fatto si appoggiano comunque sul lavoro che viene fornito da queste persone. Quindi nel momento stesso in cui queste persone offrono un lavoro che produce, genera dei fatturati per queste società, è chiaro che a un certo punto sarebbero scattate delle rivendicazioni sociali, l'ultima delle quali è quella dei fattorini di Deliveroo, una delle due piattaforme di consegna di cibo che citavi, che hanno proposto un manifesto nel quale chiedono dei trattamenti e delle condizioni che possono essere più assimilabili a quelle del lavoro tradizionale. Banalmente avere un monte orario settimanale per non essere costretti a rincorrere le varie notifiche che chiedono loro di consegnare del cibo, banalmente avere degli aumenti retributivi portando la retribuzione a 7,50 euro netti, attualmente sono lordi, e nel complesso comunque avere una specie di regolamentazione attorno al proprio lavoro che consenta loro di essere meno vittime del meccanismo un po' perverso che si può innescare con la gig economy. C'è qualcuno che è già intervenuto, quantomeno dal punto di vista della giustizia, e questo è avvenuto a Londra per quanto riguarda Uber, no? Sì, a Londra il Tribunale del Lavoro ha dato ragione a due drivers, come Uber chiama i suoi conducenti, che chiedevano di essere riconosciuti come dipendenti. L'elemento che ha deposto a loro favore, sempre secondo quanto naturalmente ha stabilito il Tribunale londinese, è che Uber imporrebbe una soglia minima dell'80%, quindi minima si fa per dire, di risposte che il conducente deve dare di fronte alle chiamate da parte della piattaforma. Uber invece contesta questo assunto e ha già fatto ricorso, perché come tutte le piattaforme del settore sostiene di lasciare assoluta libertà ai suoi conducenti di scegliere come e quando intervenire. I conducenti non la pensavano evidentemente così, hanno fatto ricorso, hanno vinto, e questo crea un precedente importante per la giurisprudenza internazionale. Alberto, allora, magari resta un attimo con noi, noi adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Saluto già intanto, però, prima di andare a sentire cosa succede sulle strade, Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione ADAPT, un centro studi sul lavoro. Seghezzi, buonasera, bentornato al microfono. Voglio farla intervenire proprio su questo, proprio per capire, secondo lei, come si può regolare tutto questo, se c'è un modo per regolare tutto questo, per far sì che appunto non sia un puro neocottimo, ma sia qualcosa di diverso, ma ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo. Francesco Seghezzi, dunque, si è fatto un'idea di come possa essere regolato tutto questo e se c'è modo di regolarlo? Allora, questa è una domanda da un milione di dollari, nel senso che come dice ne stanno discutendo dagli Stati Uniti, all'Inghilterra, alla Germania, ormai dovunque. E bisogna guardare da un lato appunto a quello che offre la regolazione del lavoro nei paesi in cui ci si vuole occupare. Pensiamo all'Italia, bisogna come prima cosa ricondurre alle tipologie di lavoro esistenti, cioè al lavoro subordinato, al lavoro autonomo, quei tipi di prestazione che noi vediamo. Non è tutto uguale, nel senso sì, che un'applicazione, una piattaforma rispetto a un'altra non sono tutte uguali. Ci sono delle piattaforme anche nello stesso settore, penso al settore dei rider, di chi consegna cibo a domicilio. Alcune piattaforme consentono effettivamente, come dichiarato più o meno da tutte, di rinunciare alla prestazione nel caso non si voglia, di avere autonomia della decisione degli orari dei tempi di lavoro, mentre altre invece pongono dei vincoli molto stretti, e già questo è una prima differenza fondamentale. Se uno dice puoi rinunciare soltanto al 10% delle consegne o puoi rinunciare all'80% delle consegne, capisce che la differenza tra un lavoro che è in ampia parte autonomo e un lavoro che invece è in ampia parte subordinato e etero diretto, la differenza è forte. Quindi per prima cosa occorre questo. Io faccio fatica a pensare, e qui mi collego al discorso di quanto sta accadendo ad Amazon, che tutto questo possa essere regolato, essendo tematiche complesse, tematiche diverse caso per caso, senza di coinvolgimento di un dialogo tra le parti. Quindi se il lavoratore è il singolo lavoratore che deve intervenire per regolarizzare la cosa, questo sarà impossibile, e sappiamo che poi si arriverà a decisioni che verranno prese dai tribunali, fondamentalmente. Sì. Qua, invece, in un caso del genere, se la presenza dell'autonomia collettiva e quindi delle rappresentanze dei lavoratori può dar vita, invece, partendo dai contratti che ci sono, a un adattamento dei contratti che ci sono alle condizioni di questi lavoratori, che, e questa è una cosa che secondo me ci dimentichiamo sempre, spesso scelgono quel lavoro anche per avere loro stessi dei margini di autonomia. A volte sì, il dibattito si riduce soltanto al fatto che sono poveri lavoratori, che l'azienda obbliga ad essere autonomi, perché in realtà non verrebbero l'ora di essere subordinati. Spesso questo non è assolutamente vero. Quindi io faccio fatica a pensare come senza il ruolo delle parti sociali e una discussione, una contrattazione del merito si possa arrivare a questo. Sì, devi parlarne necessariamente con le aziende, cioè devi connetterti anche con le aziende e capire quali sono, no? Quali sono le esigenze, quali sono i margini effettivamente, anche perché poi il rischio è che nel momento nel quale interviene solamente la giustizia, il rischio è di far scappare gli investimenti, la dico molto brutalmente, Seghezzi, perché c'è anche di questo di tema. Allora, noi sappiamo che il diritto, penso al diritto del lavoro, arriva sempre dopo a regolare i fenomeni sociali, quindi non può non essere coinvolta chi è effettivamente coinvolto nella vita di tutti i giorni, quindi imprese e lavoratori con i loro rappresentanti, se no noi, se regoliamo soltanto via per via giudiziale, prendiamo il diritto che abbiamo oggi e cerchiamo di adattarlo a una situazione che non rappresentava quando è nato, e quindi facciamo un torto al diritto, ai lavoratori e all'impresa. Che mi sembra veramente il grande tema che ci attende, ed è forse bisognerà trovare qualche prospettiva un po' di lungo periodo per la soluzione di questo problema. Un'ultima domanda, Seghezzi: secondo lei è un caso che la crescita di queste piattaforme, soprattutto in termini di lavoratori che vi aderiscono, o che vogliamo chiamarli autonomi, vogliamo chiamarli semidipendenti, comunque vogliamo chiamarli, sia avvenuta proprio in un periodo di così forte crisi nei paesi occidentali, cioè che sia corrisposto di fatto al fortissimo calo dell'occupazione che abbiamo subito a partire dal 2008? No, guardi, tocca proprio un tema che sta a cuore. No, non credo assolutamente che sia un caso. Anzi, io partirei ancora prima. Io credo che il modello originario di tutto questo, che fu la sharing economy, che dopo è diventata pian piano, in qualche modo si è declinata in questa forma, è stata una conseguenza della crisi economica e della necessità di trovare fonti di reddito alternative a quello che le imprese solitamente potevano offrire e che non potevano più offrire vista la crisi. Quindi ritengo che sia assolutamente collegato a questo tema, e anche il fatto che spesso questi lavori coinvolgano lavoratori o over 40 che hanno perso il lavoro, o lavoratori giovani che magari devono conciliare il pagamento, sì, delle rette universitarie, è sicuramente indicativo anche che si rivolgono a una certa fase. Anche questo è indicativo. Allora, grazie a Francesco Seghezzi, direttore della Fondazione Adapt, ad Alberto Magnani del Sole 24 Ore, anche ad Andrea Biondi del Sole 24 Ore, che si è collegato da Piacenza. Noi ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. State ascoltando un programma offerto da DocFlow, agire in digitale. Scopri di più su docflow.com. Focus Economia. With your touch, Ed eccoci di nuovo, la seconda parte di Focus Economia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo anche in diretta video, e se volete ovviamente potete connettervi anche là, potete vederci oltre che scriverci, commentare. Ancora qualche messaggio ci arriva sul tema Amazon e il lavoro che abbiamo trattato nella prima parte della trasmissione. Qualche ascoltatore un po' duramente, un po' bruscamente dice: mandate i vostri figli a lavorare ad Amazon, poi ne parliamo. Che le devo dire? Le posso dire che non è un grande stipendio, l'abbiamo visto, sono 1250 euro al mese, è un lavoro molto duro, sono però turni da 8 ore. È probabile, ripeto, che all'interno le condizioni di lavoro siano molto dure. Però siamo, parliamoci chiaro, perché qua l'ascoltatore scrive schiavi, siamo nell'ambito della legalità. E poi lo distinguiamo da quello di cui abbiamo parlato dopo, ossia i cosiddetti gig workers. Non mi sembra, come qualcun altro scrive, schiavitù moderna. Comunque, il dibattito è aperto, e rimane aperto. Parliamo di industria italiana intanto, non di Amazon, meglio, non solo di Amazon, perché probabilmente Amazon sarà anche uno dei canali di distribuzione di un pezzo dell'industria italiana. Perché abbiamo dei dati positivi che sono arrivati e pubblicati oggi, tra l'altro, con grande evidenza sul Sole 24 Ore, soprattutto dal lato dell'export. 13 miliardi di export in più nei primi 10 mesi dell'anno. Luca Orlando del Sole 24 Ore, ciao Luca, buonasera. Eccoci qua, buonasera a tutti. Allora, dati buoni e dati particolarmente buoni perché ci parlano soprattutto dei mercati ai quali stavamo puntando, ossia negli anni scorsi abbiamo sempre detto, tutte le persone, tutti gli esperti di export con i quali abbiamo parlato ci dicevano, bisogna tenere presente sempre gli Stati Uniti perché sono il nostro mercato di riferimento per tutta una serie di motivi, continuano a tirare, continuano ad andare bene, e poi spingere più forte su i cosiddetti BRICS e in particolare la Cina, e i segnali da quel lato sono ottimi, mi sembra di capire. Ma i segnali sono ottimi, è uno degli elementi che sta sostenendo l'attività delle imprese che stanno anche lentamente tornando ad assumere, qualche risultato si vede anche nei tassi di disoccupazione. Ma il fatto interessante, poi oggi noi l'abbiamo anche raccontato sul Sole, non è solo che noi cresciamo in questi mercati, ma in questo momento siamo riusciti a fare meglio rispetto ad altri paesi come Germania, come Francia, cioè rispetto alla media europea, dove tutti più o meno vanno bene perché il commercio internazionale per fortuna sta tirando, beh, noi comunque riusciamo a guadagnare qualche spicchio di mercato, tant'è che per esempio, non era mai successo, in questo momento noi negli Stati Uniti siamo il decimo fornitore e abbiamo per la prima volta superato la Francia, cosa che non era mai accaduta. Grazie all'alimentare, grazie al tessile, all'abbigliamento, anche grazie ai macchinari, che è un'altra area che sta tirando tantissimo e che per fortuna poi, e questo è l'altro aspetto, sta tirando anche in Italia, perché mentre l'export per fortuna, insomma, per anni ha tenuto in piedi la baracca, se vogliamo, cioè le aziende che sono vive oggi lo devono alla capacità di vendere sui mercati internazionali che hanno sviluppato negli anni scorsi, oggi la novità vera è la crescita della domanda interna, l'Italia sta ripartendo, insomma la domanda sta ripartendo sia per i consumi ma soprattutto per gli investimenti. Sì, e qua giocano molto anche i provvedimenti fiscali del governo, no? Quelli che hanno favorito esattamente gli investimenti industriali, no Luca? No, quello è, diciamo, l'elemento scatenante, lì si sommano secondo me due aspetti, questo perché se noi guardiamo il 68% di crescita degli ordini interni per le macchine utensili italiane nel terzo trimestre, lì c'è tutto, diciamo, l'iperammortamento, quindi lo sgravio fiscale, il piano Calenda 4.0. Però non dimentichiamoci che noi arriviamo da 8 anni di quasi stop degli investimenti, quindi c'è in parte il bonus e in parte un rimbalzo, diciamo, in una certa misura fisiologico, derivante dal fatto che i nostri macchinari ormai sono invecchiati tantissimo. Siamo ad una media di 12 anni e 6 mesi per le macchine italiane, che è il massimo storico. Quindi dopo anni di non investimento, l'invecchiamento del nostro parco macchine è aumentato e lievitato, e come risultato adesso per fortuna stiamo investendo. Il che, e questo è l'altro aspetto interessante, perché mentre in passato, ad esempio con gli incentivi al fotovoltaico, abbiamo ahimè aiutato soprattutto dal punto di vista industriale i produttori asiatici di pannelli, qui invece stiamo attivando un indotto meccanico larghissimo, perché quando un costruttore di una pressa vende un prodotto, in realtà attiva qualche centinaio, qualche decina, o comunque anche centinaia di fornitori a monte che stanno lavorando tantissimo. Quindi questo è quello che sta accadendo e che sta effettivamente rilanciando anche i numeri dell'ISTAT. Senza contare anche, suppongo, un servizio post vendita che riguarda l'azienda essenzialmente, perché è un prodotto suo e che probabilmente frutterà e creerà una relazione con i clienti. Cioè sono tutti elementi che poi si portano avanti anche negli anni, Luca. Portano avanti negli anni, e lì c'è l'aspetto in più su cui devo dire il piano ha azzeccato anche le misure tecnologiche, perché noi stiamo puntando sui beni connessi, quindi sulla digitalizzazione. Oggi i costruttori di macchinari italiani, ad esempio, quando vendono un prodotto, tipicamente lo stanno già da qualche mese o da qualche anno connettendo con il cliente, quindi il cliente che è magari dall'altra parte del mondo in tempo reale riesce a comunicare con il nostro costruttore, se c'è un problema si interviene magari anche via software senza mandare il manutentore, ma questo crea un legame, come dicevi tu, forte con il cliente, e diventa poi anche più difficile cambiare fornitore, se vogliamo. Bene, anche visto che tanto abbiamo parlato della farmaceutica con dolore nei giorni scorsi per la sfortuna nel sorteggio finale contro Amsterdam per l'assegnazione di EMA, l'autorità europea per il farmaco, l'abbiamo raccontato tantissimo ai nostri ascoltatori, la farmaceutica però va bene all'estero. Addirittura il presidente di Farmindustria pensa che l'anno prossimo l'Italia riesca in termini di volumi produttivi a superare la Germania, che sarebbe un fatto effettivamente epocale. Ma quello che sta accadendo, al di là di EMA, che poi voglio dire ce la siamo comunque giocata fino in fondo, eravamo in testa in tutte le classifiche prima della votazione finale, quindi diciamo alla fine abbiamo perso, ma con grandissimo onore. Ma i nostri produttori vendono in tutto il mondo, e il fatto interessante, che ricordava appunto il presidente di Farmindustria, è che negli ultimi anni nuove produzioni sono state portate in Italia. Con la globalizzazione c'è una tendenza a concentrare, cioè tu crei un punto di eccellenza, il migliore stabilimento al mondo in una multinazionale per fare, adesso invento, l'aspirina, e porti tutto lì. Ecco, noi ci stiamo portando in casa una serie di produzioni aggiuntive, quindi stiamo diventando centri di eccellenza, le nostre imprese, centri di eccellenza che vanno poi a esportare in tutto il mondo. E i risultati dell'export, non soltanto quest'anno, perché quest'anno cresciamo del 13% nella farmaceutica, ma nei primi 9 mesi, ma in realtà sta andando così da molti anni, ed è uno dei settori che sta effettivamente tenendo in piedi i conti, diciamo, l'avanzo commerciale, se vogliamo. Grazie a Luca Orlando del Sole 24 Ore per questo punto. Adesso il traffico, poi continueremo a parlare di industria italiana, sentendo che cosa emerge dall'indagine di Federmeccanica, e poi infine, scusate se l'abbiamo lasciati per ultimi oggi, i mercati. Focus Economia. Poi vedo molti sms, messaggi WhatsApp di ascoltatori che dicono: ma che schiavitù per 8 ore al giorno, 1250 euro al mese. Qualcuno dice: però è un lavoro completamente diverso, ragazzi. Qualcuno dice: faccio i praticanti avvocati, fanno 10 ore al giorno, ne guadagnano 500, però... È un lavoro intellettualmente molto impegnativo, per carità, ma ti dà innanzitutto qualche prospettiva in più, almeno in teoria. È vergognoso, però ti dà qualche prospettiva in più. È un lavoro intellettuale, insomma. Non sei in un centro di smistamento pacchi, con dei ritmi così serrati. Qualcun altro come Mario dice: fai il paravento, non fare il paravento, leggi questo messaggio, vieni a lavorare nei trasporti valori e vedi quanti schiavi ci sono. Me lo dica lei come si lavora nel trasporto valori, perché non è che posso andare a lavorare in ciascun posto per capire come si lavora. Scrivetemelo. L'industria italiana dunque Federmeccanica, o meglio l'industria metalmeccanica italiana. La produzione nei 9 mesi fa segnare un più 2,3%. In crescita anche qua le esportazioni, più 6,4% tendenziale nei primi 8 mesi dell'anno. Il vicepresidente di Federmeccanica, Fabio Astori, al microfono di Vincenzo Miglietta. Il trend è positivo e pensiamo che comunque sia un risultato che fa ben sperare per il futuro. Certo, non ci accontentiamo di questi numeri, anche perché la differenza tra noi e il resto dei paesi, i nostri competitor europei, è comunque importante. Non siamo gli ultimi della classe, cerchiamo di essere sempre più vicini ai primi, anche perché abbiamo tutte le capacità, le competenze, la voglia di fare che ci possono permettere di arrivare veramente a essere ai primi posti a livello di produzione, tecnologia, qualità di prodotto da esportare in tutto il mondo. Cosa sta favorendo questo trend positivo? La domanda interna, l'export? Il trend è positivo, l'export sicuramente, e anche la domanda interna che si sta stabilizzando. Direi che comunque molto importante è stata l'incentivazione da parte del governo di misure per poter investire denaro bene in processi produttivi innovativi, nuovi e di qualità, in modo tale che l'imprenditore sia all'altezza dei grandi, diciamo, dei produttori europei che hanno già in anticipo rispetto a noi sperimentato e messo in atto l'industria 4.0. Quanto siamo lontani dal livello produttivo pre-crisi? Abbiamo 24 punti da recuperare, sono 24 punti che ovviamente speriamo di riuscire, certo ci vorrà molto molto tempo, molta molta buona volontà e molta dedizione. Ovviamente non possiamo farcela da soli, abbiamo bisogno che anche le istituzioni ci aiutino, abbiamo bisogno che anche le parti sociali capiscano che assieme si può arrivare a raggiungere quegli obiettivi che ci meritiamo. E a proposito delle istituzioni, quali sono le misure che voi tornate a chiedere all'esecutivo e soprattutto al prossimo, quello della prossima legislatura? Ma prima di tutto vedremo chi sarà il vincitore delle prossime elezioni. Sicuramente una cosa che chiediamo è il mantenimento delle misure a sostegno degli investimenti in funzione di Industria 4.0. I benefici si sono visti. 4.0 significa anche una formazione del personale che è essenziale e vari sostegni economici che possono essere ben spesi e soprattutto ben utilizzati. Sì. Questo il quadro appunto da Fabio Astori, vicepresidente di Federmeccanica. Il sì è rivolto agli ascoltatori che continuano a scrivere parlandomi delle libere professioni, architetti, avvocati, commercialisti. Non mescoliamo, come si dice, le mele con le pere. Stiamo parlando di lavori diversi, che hanno un'impostazione diversa, prospettive di guadagno diverse, per i quali vengono fatte scelte diverse, per esempio di studio. Qualcuno mi parla degli architetti, ma cosa c'entrano gli architetti con un addetto alla logistica di Amazon che si occupa dei pacchi? Non mescoliamo le cose. Se volete paragonarlo magari ad un operaio, ci può stare, un operaio che sta in fabbrica, ci può stare. Ma paragonarlo a un architetto o un avvocato non ha senso, perché sono molto semplicemente lavori diversi, fatti da persone diverse e con prospettive diverse. Punto. E questo nel bene e nel male, in termini di possibilità di guadagno. Andiamo ai mercati dunque, mercati che chiudono la giornata in positivo, ma marginalmente, un più 0,08% per il FTSE MIB, un più 0,09% per il FTSE All Share. Da cosa è dominata la giornata oggi? Direi soprattutto da due elementi per quanto riguarda la parte positiva del listino a Milano. Spero che vi accontenterete, oggi dobbiamo fare a meno dei colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore. Innanzitutto dai bancari. Che cosa è successo? È successo che sono diffuse indicazioni secondo le quali il Parlamento europeo starebbe pensando a delle normative per facilitare lo smaltimento delle sofferenze, ossia dei crediti non più esigibili. Dunque, BPR Banca chiude con un guadagno del 5,86%, BPM del 4,81%, UBI Banca del 2,5%, Unicredit dell'1,5%. Intesa San Paolo appena sopra la parità, più 0,07%. L'altro tema è Mediaset, quella che oggi potremmo definire un po' la star del listino. Già ieri vi avevamo raccontato che si sta facendo largo l'ipotesi che ci possa essere un accordo con Vivendi, si sta facendo sempre più strada, e questo è ovviamente uno degli elementi centrali che riguardano l'azienda. Il punto è che si scommette che nel giro dei prossimi giorni la società possa firmare un accordo con Team Canal Plus per fornire contenuti, e si tratterebbe di un contratto, secondo queste indiscrezioni che vengono riportate sempre dai colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore, si tratterebbe di un contratto a circa 600 milioni da spalmare in 6 anni. Dunque Mediaset chiude la giornata con un rialzo del 4,10%. Oggi bene anche Campari, più 1,25%, Unipol più 1,18%, FinecoBank più 1,05%, bene Uxnet a Porte, meno 0,97%, il giorno del Black Friday, ieri era scesa rispetto ad esempio ad altri titoli del settore, nonostante l'arrivo del Black Friday, oggi sale più 0,97%. Positiva anche A2A più 0,91, Banca Mediolanum più 0,73, Ferragamo più 0,68, Ferrari più 0,63, positiva Unipol SAI più 0,32, Generali più 0,2, Prismian più 0,14%, Intesa San Paolo abbiamo detto, poco mossa e appena sopra la parità Telecom Italia dopo l'andamento positivo di ieri, più 0,07%, Luxottica più 0,06%, Settima Microelectronics più 0,05%. Negative oggi invece Saipem che c'è del 2,72%, Leonardo l'1,43%, male anche Italgas meno 1,35%, Brembo meno 1,15%, Exor meno 1,13%, male anche Moncler oggi, come avete visto il lusso un po' in ordine sparso, meno 0,98%, Banca Generali altrettanto, Terna c'è dello 0,88%, Fiat Chrysler lo 0,74%, complessivamente debole. Sia Fiat sono deboli, sia Fiat che Exor, ma ieri erano andate bene, e Enel giù dello 0,65%. Ed è tutto anche per questa puntata, così come per questa settimana di Focus Economia. I ringraziamenti ad Andrea Roccabella in regia, Barbara Bianchi e Mauro De Corno in assistenza e in redazione, un ringraziamento a tutti voi per l'ascolto. Ci risentiamo lunedì alle 13 con Effetto Giorno e poi anche con Focus Economia, poi promesso, martedì torna Barisoni. Una buona serata, un buon fine settimana da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.